Eccoci qua, nuova puntata di Passaggio a Nord-Ovest, la rubrica di Radio Wombat appunto parla di quello che accade nel quadrante nord-ovest della città e non solo, raccontato appunto da chi nei quartieri ci vive e ci lavora. Ricordiamo il Passaggio a Nord-Ovest va in onda il lunedì alle 14.30 e in replica tutti i giorni dal martedì fino al venerdì sempre alle 14.30. La potete inoltre riascoltare in podcast andando alla pagina podcast di Radio Wombat sul sito appunto wombat.noblogs.org, da cui potete riascoltare e scaricare le trasmissioni di Passaggio a Nord-Ovest e anche di tutte le altre i podcast di tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. E il 25 maggio scorso si è tenuto lo sciopero nazionale dei lavoratori delle poste, di Poste Italiane, sciopero nazionale di tutta Italia appunto, e il centro di meccanizzazione postale che sorge nella Piana, che sorge vicino, anzi in via del Termine, tra via del Termine e via Pasolini, è uno dei più grossi snodi, se non il più grosso snodo di Poste Italiane a Firenze. Siamo andati a sentire, ad ascoltare le ragioni dei lavoratori in sciopero e abbiamo lasciato direttamente il microfono sia per le domande sia per le risposte, il microfono direttamente in mano a loro, una sorta di autointervista, di intervista collettiva che spiega appunto le ragioni che l'hanno portata a scioperare e a manifestare. Buongiorno, siamo qui da Radio Wombat Firenze e noblog.org. Siamo il 25 maggio, sciopero nazionale delle Poste Italiane. Intervistiamo una partecipante per sentire i motivi dello sciopero. Come mai questo sciopero oggi 25 maggio 2018? Perché sta avvenendo una grandissima riorganizzazione delle poste, in particolar modo del recapito, che è un punto di forza di questa azienda ormai portata alla privatizzazione ma ancora con grande partecipazione statale, che prevede il taglio di 9.000 posti sicuri di lavoro, non licenziamenti. Le poste si sono avvalse di altri strumenti più subdoli per eliminare migliaia di posti di lavoro, riorganizzando il recapito su giorni alterni. Questo significa che il postino non è che lavora giorni alterni, il postino lavora tutti i giorni, ma su zone alterne. Quindi un giorno fa una zona che è composta di due vecchie zone, quindi il doppio del lavoro, e l'altro giorno fa un'altra zona, sempre composta da due zone del vecchio ordinamento. Questo prevede un taglio grossissimo e uno spostamento di turni sull'intera giornata, quindi si prevede che il postino possa passare anche tre volte su una stessa zona con varie tipologie di recapito. questo prevede anche uno spostamento di un peggioramento delle condizioni dei lavoratori e uno svilimento e una grande divisione dei lavoratori del mondo del recapito. Questo è funzionale a un annientamento totale della contrattazione sindacale da parte dei lavoratori, perché non possiamo più vederci, non possiamo più discutere, non possiamo più riunirci. Questo è funzionale a tutto il sistema del lavoro, lo stanno facendo in vari settori, la sanità, la scuola, tutto l'impiego pubblico. Grande peggioramento di condizioni di lavoro e quindi di sicurezza sul lavoro, perché i carichi di lavoro sono grandi e il tempo è sempre lo stesso. Quindi l'azienda prevede che il lavoratore possa lavorare anche più del suo orario di lavoro, ma i lavoratori più consapevoli sanno che lavorare più del proprio orario di lavoro significa diminuire ancora la possibilità di lavoro per i giovani e quindi la non stabilizzazione dei precari, che sono gran parte dei lavoratori delle Poste. Invece noi qui chiediamo con forza la stabilizzazione di tutti i precari, alloggi, migliaia di giovani persone che non sono solo entità astratte, sono famiglie, sono nostri figli, sono i nostri fratelli. Grazie, grazie a Paola De Recapito, grazie. Adesso sentiamo un altro lavoratore, padre di famiglia, che è qui con sua figlia e è molto, molto preoccupato per il futuro delle sue due figlie, per l'aspetto lavorativo. Allora, chiediamo a Paolo, lavoratore di Campo di Marte, postino di Campo di Marte, che aria si respira nell'ambiente di lavoro tra i colleghi. Tra i colleghi c'è paura, stress che sta avanzando piano piano. Quello lì che accade, adesso vabbè, è appena partita a Gavinana e a Campo di Marte l'organizzazione, quindi ancora è molto presto da vedere, ma quello lì che è comunque... Guarda che c'è, scusa. Cioè, quello che noi pensiamo è che... comunque poi sarà anche una guerra tra poveri, perché quattro orari differenti a Mela Gavinana e due mansioni differenti porteranno i postini ad avere comunque l'un con l'altro dei rancorini, come è sempre successo. E l'utenza? Che ne pensa dell'utenza? Come si rifletterà sull'utenza questo stravolgimento? Sicuramente l'utenza ne risentirà moltissimo, anche perché le cifre non vengono fatte tutte perché non c'è modo nel tempo stabilito, e in più anche parlando con qualche utente che capita in gita, comunque sono tutti molto sconvolti da questa cosa e già sono preoccupati per il fatto che non arriveranno, comunque la posta non arriverà tutti i giorni. Già le bollette arrivano scadute. Già le bollette prima dell'organizzazione arrivavano scadute perché le gite erano molto grandi. Adesso siamo appena partiti, quindi non sappiamo bene che cosa succederà, ma si presume che ci saranno ancora più ritardi e che comunque l'utenza ne risentirà ancora di più. Ma c'è qualche comune che comunque è stato in giro, che non è ora la città di Firenze, ancora no, in cui stanno facendo comunque sindaci, no, che stanno facendo un po' di reclami a questo per tornare, mi sembra di averlo letto. Se me lo dice ci vedo. Grazie da Piazza della Repubblica. Buongiorno, adesso intervistiamo Massimo Pasquale, scusami, che è un messo notificatore di Firenze, che è anche un lavoro non proprio capito, amato dall'utenza. E chiediamo le ragioni di questo sciopero. Grazie. Sono diverse. Innanzitutto la riorganizzazione non la condivido, anche se io svolgo una mansione diversa rispetto al portalettere tradizionale, però è una mansione che ho ricoperto in passato e che potrei comunque anche ricoprire in futuro, quindi mi sento di venire a manifestare la solidarietà verso i colleghi, penso sia giusto manifestare la solidarietà verso i colleghi. E la riorganizzazione non la condivido perché la posta nasce proprio come è successo in passato con un servizio giornaliero, non può essere portata a giorni alterni, non esiste una cosa innaturale. La figura del postino non si può condividere una consegna a giorni alterni, lasciare una posta ferma, una zona ferma, poi zona A, zona B, non è concepibile. E poi anche c'è, ripeto, i giorni alterni, e poi anche per la mobilità, io sono lucano, lavoro in Toscana da diversi anni e aspetto da anni la mobilità nazionale che non arriva, anche per quello. Uno non riesce a costruirsi una famiglia, esatto. Non riesce a pensare a un futuro e se sì, hai figli sei sempre preoccupato per il loro destino. Soprattutto non abbiamo risposte su perché non scorre la graduatoria, questo anche dei sindacati confederali. Io sono iscritto a una sigla sindacale, però sono venuto qui anche per manifestare comunque una... ad invitare questi sindacati ad essere un po' più incisivi, un po' più presenti anche nelle loro politiche. Mi risulta però che i sindacati infatti hanno firmato beatamente questo accordo. Questo è anche da capire perché alcune sigle firmano prima e poi comunque poi invitano a manifestare. Questo è anche da chiedere sul perché vengono comunque, sapendo che sono degli accordi che vanno contro il lavoratore, l'interesse del lavoratore, perché firmano prima e poi comunque invitano a manifestare le persone. Questo sarebbe da chiedere a loro, okay, a qualche esponente di queste sigle sindacali. Bene, grazie Pasquale. Grazie a te. Pasquale è troppo più bravo di me. Adesso abbiamo un altro lavoratore a cui gli chiediamo questo, ma questo sciopero è nazionale, di tutta la categoria. Quindi il problema non sussiste solo nel recapito, ma anche negli altri, in altri reparti dell'ambiente Poste Italiane. Beh, parlando dell'ambito in cui mi trovo a vivere ogni giorno, cioè l'ambito dei grandi centri di smistamento, i centri meccanizzati postali, la sofferenza anche in questo senso ormai è evidente da più anni. In sostanza, da molto tempo sta andando avanti un processo continuo di ristrutturazione estenuante che ha portato a ridefinire più volte tutta la rete della logistica con chiusura e accentramenti di vari centri di smistamento e, fra le altre cose, con un sempre meno chiaro obiettivo di che cosa devono essere i CMP. Perché di giorno in giorno appare sempre meno evidente dentro un CMP se la priorità continua ad essere quella della lavorazione del prodotto postale normale o se al contrario ormai il CMP deve considerarsi un centro logistico paragonabile a quello degli altri grandi hub in cui il prodotto veramente importante è il prodotto di logistica di pacchi, commerciale, di interscambio. Questo si riflette anche su tutta una serie di condizioni, cambi continui di orari sulle lavorazioni, ridefinizioni, cambi continui dei cicli di lavorazione, priorità assegnate, rilevate, trasformazione di reparti. E poi a livello nazionale appare anche evidente una cosa, che Poste procede a macchia d'Arlecchino sperimentando e innovando in alcuni singoli CMP e lasciando le attrezzature e gli strumenti di lavorazione in generale, anche i grandi impianti meccanici, andare letteralmente allo scatafaccio, è un po' il caso di quello che si inizia a percepire ad esempio a Firenze, in altri, lasciando però sempre dubbio se si tratta del fatto di dire che uno si trova in un CMP destinato a chiusura, a ridefinizione dei suoi compiti, a reintroduzione di un nuovo impianto quando sarà ben chiaro cosa deve essere fatto, insomma. Anche se la vita nei CMP è rispetto a quella del recapito da un punto di vista di orario e di cose meno stressante, alla fine la sensazione che siamo su una barca che sta navigando in mezzo alle nebbie come il Titanic e un giorno o l'altro potrebbe andare a sbattere contro un bel iceberg, ormai è forte. Quindi a questo punto trovo giusto, e avrei trovato giusto vedere anche più amici e colleghi, compagni, mi viene da dire, del CMP qui in piazza, ne vedo purtroppo pochi, che anche noi partecipiamo a questa giornata di notte nella consapevolezza che siamo a rischio come tutti quanti gli altri. Ecco, io ti rendo il conto. Bene, grazie, grazie. Abbiamo un'altra lavoratrice, solo che questa lavoratrice viene da Follonica, ancora a Follonica, alle Poste di Follonica non è stato applicato questo cambiamento, però sentiamo che cosa pensa, che cosa possa prevedere per il futuro con questo cambiamento alle porte. Ma sicuramente il cambiamento porterà non buone cose, perché purtroppo la situazione va sempre a peggiorare, secondo il mio punto di vista. Però siamo noi a manifestare proprio per questo e vediamo se riusciremo a fermare e a ottenere qualche cosa, anche se ovviamente, come sempre, saremo sempre in minoranza, però noi ci proviamo perché il posto di lavoro è uno dei posti più sicuri, dovrebbe essere, oggi come oggi non è più sicuro niente. Bene, grazie. Allora, abbiamo qui un'altra lavoratrice, sempre di Poste Italiane di Firenze, Vanessa, a cui le chiediamo, ma alloggi Poste Italiane, notizia di un mese fa, dichiara di essere inattivo, ma come mai allora, chiedo a Vanessa, questi tagli o licenziamenti mascherati? Beh, ce lo stiamo chiedendo anche noi, perché comunque se un'azienda è inattivo non taglia, e soprattutto se taglia sono anni, sono 10 anni che sono in Poste e ho già, tra virgolette, subito 7 tagli. Tagli che comunque sono sempre dal basso, ovvero dai postini, non tagliano mai né dirigenti, né direttori, né nessun'altra figura più in alto del postino. E sinceramente è brutto vedere una cosa così, perché comunque il telecapito è un settore ed è un servizio soprattutto, e in quanto tale te non ci puoi guadagnare sopra. Quindi anche questa cosa dell'utile, anche questa cosa del bilancio inattivo non ha senso, perché se fai servizio, il servizio non deve essere a scopo di lucro, deve essere un qualcosa per i cittadini, per l'utenza, e quindi non capiamo proprio tutta questi tagli e tutta questa organizzazione, che non è un'organizzazione ma una disorganizzazione. Bene, a proposito dell'utenza, ma l'utenza, lei ha contatto con il pubblico e tutti i giorni consegna la lettera, una volta era sempre un'attesa dolce, quasi come un parto. Adesso come viene vissuto questa disorganizzazione all'esterno, dall'utenza, dalle persone che aspettano la posta? Beh, le persone sono un po' disorientate, nel senso che prima vedevano il postino tutti i giorni, avevano anche una certa confidenza con lui, e comunque era tra virgolette bello vederlo. Ora con tutti questi tagli il postino passa un giorno sì e un giorno no, oppure ci sono due postini, perché uno passa la mattina, uno passa il pomeriggio, uno passa il martedì, uno passa il giovedì, e la gente non capisce tutta questa cosa, e sono disorientati anche loro, non sanno proprio che pesci prendere, perché comunque loro aspettano questo servizio, che ribadisco è un servizio che Poste non sta più facendo. L'unica cosa buona forse è che vi inviteranno a cena, visto che arriverete verso dalle 8 alle 9 a consegnare la posta di sera. Oddio, o ci invitano a cena o ci tirano una secchiata d'acqua, perché comunque la gente è abituata a vederci comunque la mattina. Già se qualche volta sfori l'orario o comunque fai un po' più tardi perché magari c'è troppa roba, o comunque ti sei organizzata e arrivi un po' più tardi per problemi personali, se ti vedono arrivare più tardi già ti dicono: postina, ma sei in ritardo, ma come mai oggi sei in ritardo? E per dire, sono cose, ritardo di mezz'ora, 40 minuti che può succedere. Quindi non oso immaginare quando magari un postino suonerà alle 4 di pomeriggio a portare un giornale, la gente cosa può pensare, soprattutto perché il giornale io lo compro la mattina, non mi aspetto che il postino me lo porti alle 5 del pomeriggio, perché le notizie già ora con internet eccetera arrivano già tra virgolette vecchie col giornale. Arrivare un giornale anche a una ditta o a un avvocato o a un utente il pomeriggio alle 5 o alle 7, francamente... Allora, abbiamo qua Marta del CUAS Firenze e anche a lei chiediamo che situazione vivono nel loro ambiente di lavoro per queste nuove ristrutturazioni, quelle che verranno e quelle che ci sono state. Allora, noi direttamente non siamo molto colpiti dalla ristrutturazione perché facciamo delle lavorazioni in servizio al cliente, siamo dei gruppi di persone a farlo. Uno dei problemi più grossi è quello di gestire le emergenze, cioè siamo un gruppo di persone a fare il solito lavoro, se manca qualcuno, se siamo poche persone, si lavora come ciuchi. Il carico di lavoro è molto pesante. Quindi Poste urla al budget, cioè al bilancio inattivo, però poi taglia certo. Sul recapito con licenziamenti appunto mascherati e non va a compensare i vuoti nei vari settori di tutto l'ambiente postale. Sì, un altro problema in questa ristrutturazione che ci hanno diviso in comparti, no? Noi siamo finiti CO, non siamo più Banco Posta e quindi tutta la nostra servizi al cliente, okay. e tutta la gestione nostra dalla segreteria a tutto è al CMP, noi non abbiamo referente nel nostro posto di lavoro, è un'anomalia sicuramente di difficile gestione. Ok, grazie. Chiediamo adesso ad Aldo che è dentro il corteo per lo sciopero del 25 maggio, cioè Aldo che viene dal Montamiata, postino da 30 anni, che cosa ne pensa di questa riorganizzazione che i nostri dirigenti, cari dirigenti, si agitano a fare? Le parole sono state dette tante, è nell'opinione pubblica oramai il pensiero che Poste Italiane non è più un servizio pubblico, ma è un servizio pubblico soffiato al cittadino, e questo ne stiamo parlando da quasi 20 anni, quindi questa è l'ennesima, questo passaggio ai giorni alterni, è l'ennesima provocazione di un'azienda che ha dentro di sé fondazioni bancarie e riesce a pagare ottimi dividendi a due cifre agli azionisti, e nei libretti postali del risparmio postale classico, che antagonista del risparmio bancario, ma oggi non lo è più per l'assorbimento, paga cifre dello 0,005. Il recapito, che è un elemento fondamentale, definito tale anche dal Consiglio di Stato l'anno scorso nella sentenza del luglio 2017, essenziale, pubblico, efficiente, queste sono le parole che usa il Consiglio di Stato, e la giurisprudenza tutta italiana in merito ed europea parla di 5 giorni di servizio del recapito da offrire al cittadino, tant'è che questi punti fissi, 5 giorni alla settimana, descritti dalla giurisprudenza italiana ed europea, vengono scavalcati nel modo più subdolo possibile, sempre sulla testa dei cittadini e dei lavoratori. Ma come viene scavalcato? Viene scavalcato col semplice fatto che non è stato fatto un accordo in base a delle posizioni legali, eccetera. Hanno fatto un accordo con i sindacati nazionali, i famosi porcellini, CGL, CISL e UIL, e gli altri autonomi che gli stanno a fianco. È uno scandalo indescrivibile per il fatto che sono riusciti a scavalcare la giurisprudenza nazionale ed europea. La fondamentale posizione del diritto è: 1. Leggi fondamentali della Costituzione, 2. Sono le norme contenute nelle nostre leggi, e ultimo, in fondo, è l'accordo tra le parti, quindi tra sindacati e un'azienda. Bene, questo scavalca tutto il diritto che abbiamo appena detto, ed è un vero colpo di Stato. Punto. Grazie, prego. Grazie, molto, molto chiaro. Finisce qui questa puntata di Passaggi a Nord-Ovest. Ricordiamo che appunto Passaggio a Nord-Ovest va in onda tutti i lunedì, dalle 14.30 e in replica fino al venerdì, dal martedì fino al venerdì, sempre alle 14.30, la potete riascoltare in podcast andando sul sito di Radio Wombat, wombat.noblogs.org, all'apposita sezione podcast, ci sono i podcast di Passaggio a Nord-Ovest, ma anche di tutte le altre trasmissioni di Radio Wombat. Ciao ciao, alla prossima!